A nessuno piace parlare dell'inferno. Chi ci crede non ne parla perché ha paura, chi non ci crede perché vorrebbe che non fosse vero. Testimoniavo dell'inferno a una mia parente e questa mi chiese dove avevo imparato quello che dicevo. E quando le risposi di averlo letto nella parola di Dio, replicò piuttosto seccamente, brucia il libro da dove lo hai imparato. Non è certamente questo il sistema per evitare ciò che non ci piace. Perché se esso corrisponde al vero, la cosa più saggia è di cercare di trovare un accordo con la verità, se invece non lo è, parlarne non lo rende reale. Per quanto sembra strano, a parlare più di tutti dell'inferno è stato Gesù, colui meno, ed è bene ricordarlo meno, che è morto in croce per amore di tutti gli uomini, anche di quelli che lo crocifissero. Alcune cose è bene specificare. La parola inferno non è scritta nella Bibbia ed è vero che Gesù non l'ha mai pronunciata, anche perché questo termine deriva da un vocabolo della lingua latina che significa inferiore. Una verità è certa però, anzi due verità sono certe. Dopo la morte l'esistenza umana continua. Se così non fosse, la Bibbia risulterebbe il libro più falso di questa terra, dal momento che afferma l'esistenza cosciente dopo la morte fisica. Inoltre, essa indica che non tutti i morti vanno nello stesso luogo, secondo ciò che troviamo scritto anche nel Vangelo di Matteo. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. 25.46. Qualsiasi interpretazione diamo alle parole pene eterne e vita eterna, i posti e le condizioni sono due. Uno è bello, l'altro non è affatto attraente. Dobbiamo inoltre riconoscere che, pur non citando specificatamente il vocabolo inferno nella parola di Dio, però Gesù, i profeti e gli apostoli hanno usato diverse espressioni per definire il luogo dei perduti. Alcune di queste sono punizione eterna, fiamme eterne, il verme che non muore, la Geenna, la perdizione, le tenebre, l'ira a venire, i tormenti, il giudizio eterno, la condanna, la pena, la maledizione. Tutte queste definizioni non esprimono nulla di buono e anche prese in senso simbolico, rimangono comunque termini che descrivono l'inferno, un luogo assolutamente da evitare. Spesso ci si chiede, com'è esattamente questo luogo definito così negativamente? Ci sono nella parola di Dio degli elementi che possono darci un'idea di com'è l'inferno. Sì, ci sono, anche se pochi, ma sufficienti per desiderare di non andarci. 1. L'inferno è un luogo dove i perduti sono respinti dalla presenza del Signore. 2 Tessalonicesi 1, 6-10. È cosa giusta, da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono alle questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando egli verrà. In quel giorno, per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. L'Apostolo Paolo ha detto che quel Gesù morto in croce per amore, un giorno tornerà per fare vendetta di tutti quelli che non ubbidiscono all'Evangelo, e che la conseguenza di aver rifiutato l'amore di Dio sarà essere per sempre respinti da Dio stesso. Non vi può essere una situazione più brutta per noi. Perché se Dio è amore, pace, gioia, appagamento, la lontananza da Lui significa odio, tormento, tristezza e insoddisfazione. Chi può desiderare una simile fine? 2. L'inferno è un luogo dove si soffre nel vedere i credenti nella gioia. Luca 16 e 19 31. L'episodio raccontato da Gesù in merito al mendicante Lazzaro e il ricco va preso sul serio e non come una storiella. Il racconto inizia con queste parole. Or vi era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e bisso, e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli in cielo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E, essendo tra i tormenti nell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me. Non solo la vita oltre la tomba è un'esistenza cosciente, ma i perduti vedono i salvati e desiderano ottenere un poco di pietà. Ma questa è loro negata, perché dopo la morte nessuno potrà cambiare il luogo che avrà scelto. La sofferenza nell'essere lontani da Dio è inesprimibile, ed essa è aumentata dalla possibilità di vedere i credenti nella gioia. E i credenti vedranno i perduti? Non è impossibile, perché coloro che sono nella luce non vedono quelli che stanno al buio, mentre è possibile per chi sta al buio vedere nitidamente quelli che sono nella luce. 3. L'inferno è un luogo dove i perduti hanno la terribile consapevolezza dell'impossibilità di poter passare dall'inferno al paradiso. Sempre nel racconto del mendicante Lazzaro e del ricco, Gesù mette in evidenza non solo l'impossibilità di ricevere misericordia, ma anche qualcosa di peggiore. Allora il ricco, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora, invece, egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono. Così pure nessuno può passare di là a noi. La terribile frase in questo racconto è: non è possibile. Come è angosciante non poter cambiare una drastica situazione. È già difficile soffrire, se poi alla sofferenza si aggiunge il dolore dell'essere coscienti che non ci sarà più possibilità di cambiare, il male è raddoppiato e si trasforma in angoscia eterna, il che sta a significare soffernze eterne. 4. L'inferno è un luogo dove i perduti hanno il rimorso di avere perduto l'unica possibilità di salvezza. In questa vita l'incapacità di vivere sotto la pressione del rimorso ha spinto migliaia di persone a suicidarsi. Cosa faranno e come vivranno coloro che vanno all'inferno con un rimorso dal quale non saranno più in grado di liberarsi? Non potranno più svincolarsi dal rammarico di aver perso l'unica occasione, perché anche se cercheranno la morte non potranno realizzarla, saranno disperati perché la loro condizione rimarrà in eterno e quindi saranno doppiamente angosciati nella loro angoscia. È difficile comprendere questo stato di cose, perché in questa vita tutto ha fine e si sa che ogni cosa, per quanto brutta, ha un limite. Ma trovandosi dove i limiti sono inesistenti e tutto sarà eternamente lo stesso, al pensiero di aver perduta la possibilità di vivere per sempre in uno stato di felicità, si realizzerà un dolore, un'angoscia e un rimorso, che saranno pari allo stato eterno nel quale si è scelto di venire a trovarsi. Non credo che si possa comprendere ora come possa essere un rimorso eterno. Ma è possibile averne un barlume se si pensa che un eventuale rimorso del quale attualmente si sente il peso possa incidere eternamente sulla nostra esistenza senza concederci un attimo di tregua. 5. L'inferno è un luogo dove si soffre fisicamente. Si è tentati di vedere il futuro tutto spirituale, intendendo con questo termine ciò che è incorporeo o immateriale, ma non vi è nulla di più falso. Gesù lo ha detto molto espressamente nel racconto del povero Lazzaro e del ricco, e anche altre volte, come nel Vangelo di Matteo. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10.28. Dunque, nella Geenna, un termine che si riferisce all'inferno, andrà non solo l'anima, ma anche il corpo. Questo presuppone ciò che sta scritto nella parola di Dio, e cioè che un giorno tutti gli uomini risorgeranno con un corpo glorioso per chi avrà posto fede in Cristo, un corpo ignobile per chi avrà rifiutato l'Evangelo. 6. L'inferno è un luogo dove c'è, è del fuoco. Proprio perché tutti gli uomini risorgeranno con un corpo, il loro dolore sarà completo perché bruceranno nel fuoco. Così disse Gesù, alla fine del mondo gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridor di denti. Matteo 13.4950. Molti rifiutano l'idea di un inferno di tipo dantesco, ma purtroppo il fuoco del quale parla. La parola di Dio è un fuoco vero e proprio, anche se ovviamente non appartenente al nostro ordine di cose. Gli uomini all'inferno saranno tormentati nel corpo a causa di un fuoco vero e proprio. Saranno tormentati nell'anima perché saranno condannati dalla loro ragione con la quale hanno preteso di condannare la giustizia di Dio. Saranno tormentati nello spirito per il rimorso di aver rifiutato l'amore di Dio e l'unica possibilità di salvezza. E sarà per l'eternità. Isaia 33, 14, 66, 24. Daniele 12, 2. Matteo 3, 12. Marco 9, 43. Così, mentre i salvati hanno una totale gioia e appagamento, i perduti hanno una totale, perfetta e completa sofferenza, perché spirito, anima e corpo sono completamente perduti lontani da Dio. Tutti avranno pienamente ciò che hanno anelato in questa terra, o piena beatitudine, o piena disperazione. Prendiamo sul serio le parole del profeta Isaia. Chi di noi potrà scampare al fuoco divorante? Chi di noi potrà scampare alle fiamme eterne? Colui che cammina giustamente e parla rettamente, colui che disprezza i guadagni distorti, che scuote le mani per non accettare regali, che si tura gli orecchi per non udire parlare di sangue, e chiude gli occhi per non vedere il male. Isaia 33.1415. Questo linguaggio tradotto dopo 2700 anni vuol dire che Cristo non vuole essere il tuo ospite, ma il proprietario di tutta la tua vita. Egli vuole avere le chiavi di tutte le stanze della casa della tua esistenza. Vuole insomma sedere sul trono della tua vita come re e padrone. Sei disposto a cedere a lui il controllo totale di tutti gli aspetti della tua volontà, della tua esistenza, del tuo tempo, del tuo lavoro, della tua famiglia, del tuo denaro. Se lo fai ora ne avrai un beneficio, diversamente verrà il giorno che Cristo sarà comunque il tuo padrone, ma tu sarai nel luogo più drammaticamente indesiderabile, l'inferno. Novembre 2006. Ellero.